Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Giulio Caperdoni a tenervi compagnia per un'ora tutte le sere fra le 19 e le 20, alla fine della vostra giornata, sia che sia stata di lavoro, sia che sia stata di studio. Comunque questo vuole essere un momento di stacco. Distacco fra anche la programmazione del giorno di Rock FM e l'inizio della programmazione serale. Nel 1517 il padre Bartolomé de las Casas ebbe molta compassione degli indios che si estenuavano nei laboriosi inferni delle miniere d'oro antillesi e propose all'imperatore Carlo V l'importazione di negri che si estenuassero nei laboriosi inferni delle miniere d'oro antillesi. A questa curiosa variazione di un filantropo dobbiamo infiniti fatti. I Blues di Handy, il successo ottenuto a Parigi dal pittore e dottore uruguaiano Pedro Figari, la buona prosa contadina del pure uruguaiano Vicente Rossi, le proporzioni mitologiche di Abramo Lincoln, i 500.000 morti della guerra di secessione, i 3.300 milioni spesi in pensioni di guerra, la statua dell'immaginario negro Falucio, l'inclusione del verbo linciare, nella 13ª edizione del dizionario dell'Accademia, l'impetuoso film Alleluia, la fiera carica la baionetta guidata da Soler alla testa del suo reggimento di negri e di mulatti nel Cerrito, l'incanto della signorina X, il Bruno assassino di Martin Fierro, la deplorevole rumba El Manisero, il fermato e imprigionato napoleonismo di Toussaint Louverture, la croce e il serpente di Haiti, il sangue delle capre sgozzate dal macete del Papa Loi, la abanera madre del tango, il candombe. Questo era l'incipit di Storia universale dell'infamia di Jorge Luis Borges. Love. la mia pappagallina Petra? Sì. È morta. Oh. Oh, quanto mi dispiace, Harry. Che è successo? Le si è staccata la testa. Le si è staccata la testa? Sì, era vecchiarella. Thank you. sicuramente un'anomalia sulla scena musicale di Nashville, una band capitanata da una donna, non solo per questo ma anche per il sound che propone. I Forget Cassettes, appena ascoltati, che erano nati come un duo, proprio così, alla White Stripes, solo che i ruoli erano invertiti, la donna alla chitarra e la voce, l'uomo alla batteria, e ora sono diventati invece un trio. Si rimane negli Stati Uniti con un duo che abbiamo cominciato a conoscere dalla scorsa settimana, fra hip hop e punk. Loro si chiamano Best Friends. Pianto, coraggio. Forza. Va bene, ora basta. Da giazzera a portare il tuo Dicono, il che è improbabile, che la storia sia stata riferita da Eduardo, il minore dei Nelson, durante la veglia funebre di Christian, il maggiore, che morì di morte naturale, intorno al 1890 nel distretto di Moron. Quel che è certo è che qualcuno la sentì da qualcuno nel corso di quella lunga notte perduta tra un mate e l'altro, e la ripeté a Santiago da Bove, dal quale l'ho saputa. Anni dopo me la raccontarono di nuovo a Turdera, dove si era svolta. La seconda versione, un po' più prolissa, confermava sostanzialmente quella di Santiago, con le piccole varianti e divergenze del caso. La scrivo adesso perché in essa si riassume, se non mi inganno, una breve e tragica immagine dell'indole dei vecchi abitanti dei sobborghi. Lo farò onestamente, ma già prevedo che cederò alla tentazione letteraria di accentuare o di aggiungere qualche dettaglio. Questo era l'incipit de Il manoscritto di Brody, di Jorge Luis Borges.